la vista chi l'ha, la sinistra italiana. Se sei in ascolto, sinistra, rispondi a chi ti chiama. C'è chi dice di averla vista tra le margherite dei rudeliani, c'è chi dice di averla vista sopra le querce dei diessini, c'è chi dice di averla vista tra le righe del programma del PD, c'è chi dice di averla vista tra gli asinelli di Prodi. Siamo andati a vedere, siamo andati a controllare, ma la sinistra non c'era, erano voci da confutare. Chi l'ha vista, chi l'ha? La sinistra italiana. Se sei in ascolto, sinistra, torna da chi ti ama. Ci sono in giro molti sosia, imitatori e persone somiglianti, ma quella vera dove sia, se lo domandano tutti quanti. Se qualcuno l'ha sequestrata, dica qual è il riscatto da pagare. Se qualcun altro l'ha ammazzata, abbia il coraggio di confessare.